L'inizio delle lezioni il 15 di settembre è un'indicazione che viene data dal calendario regionale e quest'anno in particolare cade di venerdì. Ci sembrava che a fronte di una pausa estiva molto molto lunga fosse da tenere in considerazione la possibilità di anticipare di qualche giorno l'inizio delle lezioni o per fare in modo di farlo cadere ad un inizio settimana, quindi che le scuole possano cominciare di lunedì e magari concludersi di venerdì, ma anche per facilitare le famiglie che già si trovano a dover affrontare un lunghissimo periodo di sospensione della didattica con una gestione dei propri figli e delle proprie figlie estremamente complessa. Quando è stato affrontato il tema dei centri estivi era stato detto che si stava riflettendo a livello regionale anche su come apportare delle significative revisioni o comunque innovazioni per poter sostenere le famiglie in questo periodo. Sappiamo tutti che i giorni di scuola sono 200 e che il calendario scolastico si deve costruire intorno a questi 200 giorni di lezione. Però ecco, secondo noi come consulta cinica sarebbe il momento di cominciare a rivedere la modalità attraverso cui i giorni di sospensione della didattica sono distribuiti. Constatiamo che invece ai tanti proclami di ci stiamo pensando, stiamo riflettendo, corrisponde poi semplicemente appunto l'affermazione di quello che è sempre stato. Non ci sono cambiamenti e non ci sono prospettive di cambiamento concrete da nessuna parte. Se ne parla quando c'è il calendario scolastico che viene approvato, si prendono impegni, si fanno proclami e poi le famiglie anno dopo anno, dopo anno, dopo anno si trovano a dover gestire un periodo di sospensione della didattica molto lunga. Quindi insomma quello che chiedete voi non riguarda solo il prossimo anno scolastico 2023-2024, ma in generale come viene impostato appunto sempre il calendario scolastico. Sì, quello che chiediamo è che ci sia un ripensamento strutturale di come è organizzato il calendario scolastico, che non prenda in considerazione solo il prossimo anno, ma che in una qualche maniera cominci a pensare di ridistribuire una piccola parte dei giorni delle pause estive all'interno dell'anno, così da permettere alle famiglie di non dover gestire degli enormi periodi di sospensione della didattica e poi affrontare dei periodi invece di didattica molto molto densi nel corso dell'anno. È immaginabile, come dire, un servizio nuovo che faccia un po' da ponte tra l'estate e l'inizio dell'anno scolastico, oltre ai centri estivi, perché adesso appunto i centri estivi comunque hanno un costo, non tutti se lo possono permettere. Questo sarebbe senz'altro auspicabile, sarebbe uno strumento di welfare veramente molto efficace. Pensiamo per esempio al metodo francese, in cui in Francia tutte le scuole sono chiuse tutti i mercoledì, la didattica è sospesa tutti i mercoledì, ma le scuole sono aperte e le cooperative, i gruppi sportivi le possono utilizzare per proporre un'attività. Se si pensasse a un'apertura delle strutture scolastiche con una gestione che prende in campo i bambini di quei bacini, quindi nel senso che non mette attraverso i gestori di fronte a una serie di insicurezze rispetto agli iscritti e ai flussi settimanali, perché bene o male se si lavora all'interno di un bacino, dopo un paio d'anni di riflessione poi le cose si consolidano, si potrebbe pensare a un investimento di welfare in quel senso, che permetterebbe agli insegnanti di non dover stravolgere completamente la loro agenda vacanziera e allo stesso tempo permettere alle famiglie di avere un accesso facilitato, molto più economico se non interamente a questo punto sostenuto dal welfare, con uno sforzo organizzativo che se si lavora su istituti comprensivi è poi tutto sommato differente rispetto a quello che serve per pianificare ad esempio i centri estivi per tutta una città come Bologna. Questa è una delle possibili soluzioni, però è assolutamente necessario andare verso una riflessione e poi una riforma del calendario scolastico che tenga in considerazione il fatto che 15 settimane di sospensione della didattica non sono affrontabili nelle condizioni dell'economia attuale. Non si può parlare di lavoro femminile, non si può parlare di sostegno alle famiglie se non si comincia concretamente a prendere in considerazione questa difficoltà che presenta la genitorialità in Italia.